Gli speciali di Radio 24. Sono le 19 e 17 minuti. Buonasera da Gigi Donelli. Questa sera in studio saremo insieme per circa un'ora con Nicoletta Carbone. Eccomi qua, buonasera a tutti, grazie Gigi. Che è qui di fatto da una settimana a raccontare con tutti noi, ma insomma con un'attenzione specifica, questa emergenza sanitaria. Tra qualche istante i nostri ospiti: Massimo Galli del Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Ospedale Sacco, Fabrizio Pregliasco, virologo del Dipartimento di Sanità pubblica dell'Università di Milano, e anche Ilaria Capua, che è una virologa, direttore del centro One Health della Florida, e mi dicono in questo istante dalla regia che è con noi. Allora, ovviamente quello che intendiamo fare oggi, ancora una volta, chi ha sentito lo speciale curato da Nicoletta, era soltanto ieri. Sembra queste giornate un po' si allungano, cercare di capire tra l'obiettiva esigenza di informare e il rischio di sovrainformare, di creare preoccupazione. Allora, abbiamo scelto di iniziare proprio dalla dottoressa Capua, che ci parla dalla Florida. Sì, un punto di vista, professoressa Capua, un po' ci sono delle situazioni che vanno viste con, mi passi il termine, con un po' di distacco, ma io penso a un distacco in chilometri. Lei è in Florida, distacco ma con competenza, naturalmente. Lei aveva già anticipato in alcune altre interviste, era stata anche ospite di Obiettivo Salute, che sarebbe arrivato anche in Italia il coronavirus, naturalmente, ed è arrivato. Professoressa Capua, come considera e giudica la situazione, anche questo allarme che c'è in queste ore in Italia, in modo particolare in Lombardia? In 24 ore l'Italia, nonostante le misure restrittive prese, è in cima alla lista dei paesi in Europa con maggior numero di casi e 3 decessi. Allora, io direi di partire dalle buone notizie. Mi piace. Le buone notizie sono quelle che qui, dalla mia postazione oltreoceano, a oltre 8.000 chilometri di distanza, non si vede una mascherina, nel senso che non le porta nessuno. E quindi, così, vorrei soltanto dare questo elemento di sottofondo. E voglio dire, la Florida è una parte degli Stati Uniti con moltissimi turisti e con un giro di movimento di persone significativo, quindi volevo solo dire questo. Come allora, la seconda notizia che ci giunge, che in Italia sembrano esserci un numero di infetti superiore a quello che ci si aspettasse, ma questo secondo me va veramente intesa come una buona notizia. Perché? Perché se il virus sta circolando indisturbatamente da un mesetto e mezzo, perché questo ci dicono le date dei pazienti che sono andati all'ospedale sia in Veneto che in Lombardia, che in Lombardia, significa che la stragrande maggioranza dei casi, perché non è che questo virus è arrivato a Vo Euganeo catapultato con un drone, questo virus è arrivato a Vo Euganeo, che vi garantisco è un paesino veramente piccolo, attraverso movimentazioni di persone. Ha fatto parecchia strada. Sono stati controllati e sono negativi, quindi vuol dire che è verosimile che il paziente che poi è deceduto, e ricordo che era una persona insomma avanti con gli anni, con tutta una serie di altri problemi, verosimilmente l'ha contratta non da un paziente, da un cinese. Quindi è verosimile che l'infezione sia molto più diffusa, che non diciamo che tutti questi casi, la stragrande maggioranza, non erano neanche degni di essere riportati al medico, e quelli che invece dal medico ci sono andati, il medico gli ha detto stai a casa che c'hai l'influenza. Quindi io non vedo veramente perché questa infezione debba essere trattata in maniera diversa da una epidemia di influenza. Ecco, a questo proposito, una sua collega del Sacco di Milano, quindi un luogo di competenza, stamattina dice: a me sembra una follia, si è scambiato un'infezione appena più seria di un'influenza per una pandemia letale. Allora, e qui io vorrei sottolineare il significato delle parole, perché, come dice giustamente la mia collega, aggiunge al termine pandemia la parola letale. Perché pandemia non vuol dire che ucciderà, pandemia vuol dire che farà il giro del mondo, che infetterà. Io credo, e vorrei sottolineare le parole della mia collega Maria Rita Gismondo, peraltro, del Sacco di Milano. Ecco, gli scenari da, tra virgolette, pandemia letale, per esempio ci ricordiamo le immagini della Spagnola, eccetera, eccetera, non sono più realistiche oggi, perché oggi abbiamo gli antibiotici, perché oggi abbiamo i vaccini, perché oggi abbiamo uno stato di salute molto migliore, perché oggi non c'è la guerra. Cioè, la pandemia spagnola è arrivata alla fine della prima guerra mondiale. Ecco, oltretutto abbiamo, scusi, i telefoni, i computer, l'email, quindi noi risponderemo in maniera, e stiamo rispondendo, molto più efficace, perché abbiamo gli strumenti. Abbiamo però un lato debole, e il lato debole è la globalizzazione, cioè che mentre la spagnola ci ha messo un anno a arrivare dall'altra parte del mondo, questo virus ci mette una settimana ad arrivare dall'altra parte del mondo. Però questo non è colpa del virus, questo è colpa dei fenomeni della globalizzazione. Professoressa Capua, il confronto con gli altri paesi europei però ci sta, fa pensare a tante persone che, nonostante abbiamo preso delle misure le più restrittive, qualche cosa è sfuggito. Sì, anche perché tutti anche i giornali, perché... come Il País, la BBC, aprono sulla differenza Italia. Allora la domanda è: come mai, visto che il mondo globalizzato esiste anche a nord delle Alpi, in questo momento si concentra qui? Stiamo forse cercando il virus più di altri? Allora, io ricordo che tanti anni fa il mio laboratorio di Padova fu il primo ad isolare il virus e a caratterizzare il virus dell'influenza aviaria in Europa. In Europa. Quindi il fatto che noi siamo di nuovo i primi ad avere la tecnologia, la rete diciamo di organizzazione, la rete sanitaria per fare questi primati, è possibile perché abbiamo un servizio sanitario che funziona e una rete di laboratori che funzionano. Io credo, e vedremo verso la fine della settimana, che durante questa settimana inizieranno ad apparire anche diversi casi negli altri paesi europei. Se si cerca si trova. Quindi, professoressa Capua, mi sembra di cogliere da parte sua un messaggio, posso dire, rassicurante? Allora, un messaggio compattamento. Allora, questo è un problema che non riguarda solo la Lombardia e il Veneto, non riguarda solo l'Italia, ma riguarda tutto il mondo. Ognuno di noi deve fare il suo pezzetto e deve fare in modo che questa emergenza sia gestita al meglio. Quindi noi possiamo, cioè il vero problema di questa emergenza sono i costi, perché sarà un'emergenza che costerà tantissimo. Io sto lavorando, ve lo dico in anteprima, con Stefano Quintarelli, che è un mio ex collega parlamentare, ma veramente un esperto di informatica, per cercare di trovare delle piattaforme che possano essere usate per diciamo permettere alle scuole di continuare la didattica, piattaforme che funzionino, che siano accessibili, che costino poco e che siano anche diciamo adatte ad un sistema scolastico. Quindi ecco, ognuno deve fare il suo lavoro. Ilaria Capua, la ringrazio. Una battuta davvero flash: gli Stati Uniti, lei ha detto i casi arriveranno in Europa, gli Stati Uniti, oggi il presidente Trump dice: noi siamo al sicuro. Io credo che si sbagli. Ok, perfetto. Okay. La ringrazio molto, grazie. La ringraziamo di essere stato con noi. L'ottimismo dei presidenti, peraltro oggi il presidente Trump ha avuto altri dati di notevole successo sul suo futuro, quindi evidentemente lo si vede in questi termini. Allora, il fatto che ciascuno debba fare la sua parte richiama, direi, fortissimamente un po' le parole che il presidente del Consiglio Conte ha detto questo pomeriggio scegliendo Dominica Inn, quindi praticamente andiamo. Ha deciso di parlare a tutti, sentiamo. Ed è importante da parte di tutta la comunità nazionale e da parte mia in primis esprimere solidarietà nei confronti di quelle persone che in questo momento sono dirette destinatarie di qualche misura restrittiva che ce ne rendiamo conto, ce ne dobbiamo tutti render conto, creerà qualche sacrificio personale. Io ho appena firmato un decreto attuativo che dispone queste limitazioni per i prossimi 14 giorni, soprattutto per le aree che sono direttamente state individuate come centri, il fulcri di questo contagio. In queste aree è chiaro che si impongono delle misure che sono dei sacrifici per la popolazione locale. Noi dobbiamo essere vicini a questa certo. comunità, chiediamo a loro dei sacrifici, ma li ripaghiamo con una maggiore assistenza. Li ripaghiamo quindi con la massima attenzione per la loro salute. Queste le parole, direi la sintesi dell'intervento del Presidente del Consiglio. Adesso tra un momento con noi Massimo Galli del Dipartimento di Scienze Biomediche, appunto del Sacco di Milano, diciamolo qua, sì, a due passi da e noi. Fabrizio Pregliasco, anche lui un virologo, una voce nota agli ascoltatori non solo di Radio 24. Adesso però uno stacco, poi ripartiamo da quanto abbiamo sentito. Gli speciali di Radio 24. 19:31 minuti, ancora buonasera da Gigi Donelli, da Nicoletta Carbone. Siamo eccomi. Qui, eccoci qua Nicoletta. Abbiamo ovviamente tantissimi spunti. Abbiamo sentito dalla nostra prima ospite, Ilaria Capua, che appunto ci ha raggiunto, di fatto, o meglio, l'abbiamo raggiunto in Florida, una riflessione di questo anche equilibrio tra prevenzione e preoccupazione. C'è stata anche una citazione molto interessante alla spagnola, quindi qualcosa che l'Italia ha conosciuto bene. Basta andare a scavare negli archivi del Corriere della Sera 1918-19. È forse curioso ricordare perché si chiama spagnola. Spagnola perché allora, addirittura alla fine della prima guerra mondiale, si pensava, alcuni temevano che fosse un'arma bellica, e la Spagna, che era un paese neutrale, invece l'ha denunciata. Ora, parlare quindi di quello che sta accadendo è essenziale. Continuiamo a farlo con i nostri ospiti. Massimo Galli con noi, Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'Ospedale Sacco. Non so se abbiamo già in collegamento, perché non ho una conferma dalla regia, al dottor Pregliasco. Sì. Buonasera a entrambi. Che coppia. Buonasera. Professor Galli. Buonasera. Buonasera. Anche questa giornata è stata una giornata, direi, particolarmente impegnativa. Beh, sono ancora in ospedale, immagino. Quindi francamente sì. Professore, c'è grande attenzione, grande allarme. Io ricevo tantissime mail, così telefonate, numeri verdi, queste misure restrittive. 11 paesi in Lombardia in quarantena. Sono misure che sicuramente servono, ma allarmano. Ci dia il suo punto di vista per cercare di evitare allarmismi, ma soprattutto cercare di responsabilizzare ciascuno di noi, come ha anche anticipato la professoressa Capo. Ciascuno di noi deve fare la sua parte. Professor Galli, la situazione. Beh, certamente sì, è meglio essere allarmati dalle misure che essere allarmati per trovarsi l'infezione in casa. Quindi, da questo punto di vista, quello che è stato intrapreso era purtroppo un intervento necessario e credo che non possa essere in nessun modo contestato nella sua validità e nella sua necessità. Ci è capitato quanto di peggio poteva capitarci dal punto di vista della genesi di un focolaio epidemico, e cioè un'importante epidemia ospedaliera innescata da una persona inconsapevole che non aveva nessuna caratterizzazione a rischio reale. Oltretutto, anche l'unico contatto ricostruito fino adesso con una persona che potesse essere il il caso zero, il paziente zero. Ecco, ha dimostrato che non era reale, perché il paziente zero non ha mai avuto nulla da questo punto di vista. E questo ormai cosa significa, professor Galli? Non avere il paziente zero? Ecco, significa che nell'area geografica interessata, o forse nelle due aree, se devo considerare anche quella del Veneto, si è verificato verosimilmente nella seconda metà di gennaio o i primi di febbraio che qualcuno con un'infezione non palese sia arrivato, l'abbia poi sviluppata, non l'abbia sviluppata in maniera tale da rendersi riconoscibile da questo punto di vista, e non ha, chiaramente questa persona comunque non ha pensato di riferirsi alle autorità sanitarie, e la conclusione, ahimè, di tutta questa vicenda è stata la diffusione dell'infezione in quell'area con una spinta assolutamente rilevante data purtroppo dalla, appunto, epidemia ospedaliera, dal fatto che i colleghi a Codogno, non potendo sospettare che la persona che si era rivolta a loro fosse portatore di questa infezione, l'hanno gestito senza le necessarie prudenze. E, senta, però, ecco, dottor Galli, però questo è un modo gentile per dire che hanno sbagliato, per carità, gli errori li facciamo tutti. No, ma perché loro hanno fatto quello che al momento erano in condizioni di poter fare. Chiaro. In un momento che è quello, tra l'altro, centrale del periodo invernale, in cui le infezioni delle prime vie respiratorie sono sempre numerose, hanno gestito un caso che inizialmente non sembrava niente di più, probabilmente, certo, di un'influenza, poi di una possibile chiarissimo. E quando dico sbagliato, dottore, mi capisca, non intendo fare accuse, intendo che è maledettamente complicato, immagino, distinguere. A questo proposito, Fabrizio Pregliasco, grazie anche a lei naturalmente di essere con noi, mi aiuta a ricordare quanti sono i casi di influenza normale in un anno standard italiano? Allora, si tratta però, come diceva magistralmente il dottor Galli, di una situazione che va governata, perché è diversa dall'influenza. Cioè, in che senso? Nel senso che è un virus nuovo e va gestito come la spagnola, cioè con la potenzialità di una situazione pesantissima come la spagnola. Chiaro. Il 35% della popolazione colpita, siamo tutti suscettibili. Questo è l'aspetto che quindi che ha fatto decidere per questi interventi, diciamo, muscolari istituzionali, ma nella consapevolezza che oggi abbiamo capacità di diagnosi, di selezione dei pazienti, salvo, come purtroppo è capitato, come appunto non poteva essere immaginato dagli amici, dai colleghi di Codogno, questa situazione così specifica. È vero. Perché non era stata riconosciuta, quindi. No, perché non se ne pensava. Le diagnosi differenziali, come diciamo noi, si basano anche sulle probabilità di individuazione di una malattia alla luce di sintomi che sono sovrapponibili a tante cose. Okay. Quindi, ecco, ognuno pensa a quello che è più probabile. L'influenza è vero, ci dà fastidio perché è una malattia che causa pochi, diciamo, effetti diretti. Le polmoniti impegnative e i casi di influenza pesante in questa parte di stagione sono poco più che 200, con purtroppo anche una quota di 20-22 decessi diretti. Quello che impegna di più, ed è anche la probabilità e la possibilità verso questo virus con un'ampiezza maggiore, le complicanze cardiovascolari e respiratorie. Io vorrei che mi aiutaste a capire, professor Galli, professor Pregliasco. Allora, hanno le due, l'influenza stagionale e il coronavirus, hanno dei sintomi iniziali che sono per sovrapponibili, tanto che gli stessi medici, no, possono in qualche modo non riconoscerli. Messaggio per le persone che ci stanno ascoltando: è un momento dell'anno in cui un po' di mal di gola, naso che cola, due colpi di tosse, due linee di febbre, li mettiamo in conto. Che cosa facciamo, professor Pregliasco? Come faccio a non allarmarmi, ma anche a non sottovalutare dei sintomi, e quindi, senza andare in pronto soccorso, questo continuiamo a dirlo, ma chiamo il 112, il 118 per segnalare questi sintomi e quindi sottopormi al test? Allora, è importante che non si vada, non lo si dovrebbe mai fare, salvo condizioni cliniche pesantissime per l'influenza stagionale. Tra l'altro in Lombardia e in Veneto hanno messo anche due numeri verdi specifici, proprio perché il 112 è andato un po' in tilt in questi giorni rispetto a questa incredibile, ovviamente, necessità, certo, di ulteriori. Ci sono in effetti ai medici di famiglia stessi, come che possono essere uno dei vari canali, è stato dato una checklist, come si dice, una serie di domande per poter, come dire, individuare i casi sospetti da inoltrare attraverso un percorso differenziato e profilato verso le strutture di riferimento, che non è detto che siano il sacco, anzi il sacco deve rimanere libero per i casi più pesanti, ma diciamo su altri in prima istanza reparti con malattie infettive che comunque possono gestire queste ecco, forme, considerando il rischio di essere stato in contatto con una persona che è arrivata dalla zona epicentro, che ormai si sta allargando. Perché naturalmente... Ma come faccio allora? Quali sono i sintomi, i segni che io devo considerare con attenzione? Allarmanti, se ci sono, se vogliamo dire allarmanti. Professor Galli? Guardi, io voglio soltanto ricordare il perché chiamiamo febbraio. Sì. Perché i latini l'hanno intitolato alla Dea Febris. Allora, cerchiamo di non fare confusioni e ricordiamoci che siamo appena oltre il picco della epidemia influenzale annuale. Quindi non è assolutamente giustificato che al primo starnuto o che al primo colpo di tosse, tenendo conto che insieme al virus influenzali propriamente detti A e B abbiamo una serie di altri virus che sono in grado di dare sintomi delle prime vie respiratorie, non è assolutamente giustificato che le persone cadano nel panico. Le persone che hanno necessità di essere seguite ed osservate rimangono le persone che hanno avuto un contatto certo con una persona che si è infettata o che arrivano da aree geografiche direttamente interessate al fenomeno e hanno sintomi. Possiamo estendere questo concetto anche alle aree attorno a Codogno, ai paesi dell'Odigiano che sono stati colpiti da questo punto, in questi momenti da questo problema. Attendiamo indicazioni in proposito, però francamente con la dovuta prudenza anche nel mettere l'accento sui possibili potenziali rischi. Non è stata una passeggiata questa epidemia ospedaliera, per la quale risottolineo non identifico delle responsabilità e delle colpe da parte dei sanitari, tra l'altro, che stanno pagando in prima persona, certo, è un pesante scotto da questo punto di vista, glielo posso garantire. Ma non ne dubitiamo, dottor Galli. Ecco, a questo proposito, mi scusi, il presidente dell'Ordine dei Medici, però, il presidente della Federazione Nazionale dell'Ordine dei Medici, Filippo Anelli, ieri da noi a Radio 24, come dire, sollevava anche come dire, la questione delle dotazioni, perché l'Italia ovviamente è un paese grande, ogni struttura ha un po' la sua storia e ancora una volta siamo di fronte a delle situazioni nuove. C'è una relazione, il numero dei sanitari che sono stati appunto toccati direttamente, dunque sono risultati positivi, è in qualche modo sorprendente o siamo pienamente nella norma appunto di un lavoro allora di chi lo fa in prima linea? Ne segnalo soltanto un'epidemia non di questa malattia, ma di MERS, data da un virus parente di questa malattia che dà sintomi simili. Credo di averlo visto riportare in una mia intervista giusto oggi al Corriere, in cui sottolineavo come a Seul, Corea, nel 2015, da un unico paziente arrivato dal Medio Oriente, si siano generati in un ospedale 186 casi di MERS con 33 decessi, con la necessità di andare a seguire 16.000 contatti di queste persone, cioè persone che non hanno venuto in contatto dunque con i malati. Ecco, allora questo per spiegare, sperando che non si arrivi in nessun caso, certo, all'estensione, certo, del problema in questi termini, come un'epidemia ospedaliera possa essere d'impatto in una situazione di questo genere. Inoltre, ad essere colpiti sono stati molti colleghi medici, in particolare rianimatori e persone che lavorano in rianimazione. Non è un caso, sono stati quelli che hanno avuto una maggiore esposizione al caso indice. 19:44 e 30 secondi, chiedo ai nostri ospiti di restare con noi, abbiamo gli aggiornamenti perché in viaggio in tutto questo, appunto domenica rientro in città, rientro nei luoghi di abitazione dopo un weekend decisamente particolare sul fronte informativo, torniamo immediatamente. Gli speciali di Radio 24. Nicoletta Carbone e Gigi Donelli ancora per questo speciale con noi, il dottor Massimo Galli, il dottor Fabrizio Pregliasco, molte le domande naturalmente, anche quelle che arrivano, molte le notizie, chiusura dei bar, l'ultima di poco fa dalle 18, quindi sono già chiusi, fino a domattina alle 6, poi bisognerà vedere l'applicazione perché non è semplice, ma forse è tempo di parlare di... Cura anche. Già, professor Pregliasco, professor Galli, come vengono curate le persone che... hanno il coronavirus, quindi sono ricoverate in ospedale. Come si può evitare, si possono evitare le complicanze? Sappiamo che il rischio polmonite è alto, si usano antivirali che vengono usati anche per altri virus, mi viene in mente l'herpes o altri virus, o utilizzate altri farmaci? Temo che la domanda non possa che essere per me. Le dico che allo stato attuale dei fatti noi non abbiamo alcuna cura specifica nei confronti di questa malattia, o meglio nulla che sia stato sperimentato e abbia dimostrato una sicura efficacia. Stiamo utilizzando farmaci sperimentali, anzi stiamo approvvigionando in questa direzione e stiamo già utilizzando farmaci che sono già stati utilizzati per altre patologie, nell'ipotesi, per il momento non confermata, che possono essere efficaci anche in questa patologia. Se vuole che scenda maggiormente sul dettaglio lo posso fare. Vado? No, dipende, professor Galli, sì, dipende, perché allora, quando il professor Galli parte poi andiamo nel dettaglio dettaglio. Quando abbiamo in mano, quello che abbiamo in mano attualmente è un farmaco che è un inibitore della proteasi di HIV, che speriamo possa essere utile anche come inibitore di questo enzima, anche di questo virus. Contiamo di poter utilizzare in tempi brevi un altro farmaco che si chiama Remdesivir e che è un farmaco che serve a impedire che il virus replichi bloccando la riproduzione della catena dei nucleotidi del virus. Quindi messa a punto dei farmaci da una parte. Nel frattempo, professore, veniamo un momento anche alle vittime, torniamo sulle tre persone che appunto italiane che davvero in poche ore hanno in comune un profilo dell'età, hanno in comune un profilo forse di patologia. Abbiamo quindi sentito, sono pazienti fragili. Sono pazienti fragili indubbiamente e questo mi fa pensare ulteriormente che abbiano avuto in realtà del tempo prima di sviluppare completamente il quadro di patologia che li ha portati all'altro mondo, quindi non sono infezioni di ieri l'altro fulminanti, okay. Verosimilmente erano già infettati da qualche giorno e poi hanno sviluppato, non lo dico per sicura conoscenza perché sono pazienti che ne hanno visto, sospetto che sia andata così. Professor Pregliasco, abbiamo sentito dal professor Galli i farmaci che vengono utilizzati, ma si può anche, mi passi il termine, prendere il coronavirus e avere dei sintomi lievi che passano come una comune influenza. Nei fatti sì, questa è la casistica che ci arriva dalle revisioni, dei tanti pazienti che purtroppo i colleghi cinesi hanno trattato e quindi c'è una variabilità, rimane questo dubbio rispetto alla capacità di soggetti asintomatici di contagiare, questo è qualcosa che si è visto per esempio in Germania rispetto a una persona che dalla Cina nella fase finale di incubazione e che poi si è evidenziata al suo rientro ha poi creato casi a catena dei propri colleghi. Quindi di fatto questo aspetto rende come dire, un po' più problematica quella che sarà la possibile controllo rispetto a una SARS, dove invece la sintomatologia era l'elemento importante per il contagio e quindi è stato possibile circoscrivere meglio questa patologia e ottenere un risultato, diciamo, che per fortuna in quel caso aveva evidenziato meno casi e meno decessi rispetto a quelli che purtroppo andiamo a vedere. Andiamo a registrare. Esatto. 19:51. Ora, ieri mentre andavo in macchina e ascoltavo voi e Nicoletta Carbone parlare appunto anche di comportamenti. Bravo. Grazie. Mi piacciono. Perfetto. I comportamenti. Perché sono... visto che comunque ci siamo nel mezzo, abbiamo un sacco di domande. Ieri sera, dopo una lunghissima giornata, perché appunto anche noi siamo sempre aperti, eccetera, incontrando degli amici, ho notato che il saluto tipico degli italiani, che di solito sono due baci sulla guancia, no? Certo. Ha prodotto una reazione. La domanda è sensato, tutto sommato, meno, come dire, meno ci si tocca, meglio è? Meno incontri ravvicinati o ravvicinatissimi? Il buon senso deve esserci, non vorrei arrivare a fare comunicazioni che portano a, come dire, a un allontanamento sociale. Una distanza sociale si vuole ed è l'iniziativa del Ministero rispetto in particolare alle situazioni sulla scuola, sugli assembramenti e quant'altro. Cioè grandi gruppi. Grandi gruppi, a livello dei singoli, diciamo che il buon senso e l'igiene, quello che raccontiamo ogni anno per l'influenza, certo, è quello che nei fatti anche in questo caso dobbiamo rimarcare, perché sennò davvero creiamo, a mio avviso, un eccessivo panico e come dire, paura. No, ma lungi da noi fare questo, però effettivamente ci sono anche dei comportamenti, certo, insomma altri... Si prendono anche i mezzi pubblici, professor Galli, si viaggia in oggi treno. Oggi circolava la voce che Milano fosse deserta, Milano non è affatto deserta, l'ho attraversata a piedi stamattina, c'è un sacco di gente in giro, insomma non è nostra intenzione quello, però se possiamo dare dei consigli. Attenzione all'epidemia mediatica, alla fin dei conti, certo, in realtà non certo ha tutto questo che avete appena detto, è qualche cosa che non ha oggettivamente senso, il discorso che non ci si baci più sulle guance, non ci si dia più la mano, è così, insomma, un'eccessiva... È bizzarro almeno, no? Sì, è un po' un prestarsi a una possibile moda del momento e la cosa non ha giustificazioni particolari, nel senso che invece quello che è opportuno fare, soprattutto quando si esce, si sale su un mezzo pubblico, ci si mette nelle condizioni in cui tocchi forzatamente delle cose, poi lavarsi le mani, farlo di frequente, stare attento a non portarsi le mani alla bocca e agli occhi, questo sì, questa è una buona pratica anche proprio nel corso della stagione influenzale. Dopodiché non siamo ancora nelle condizioni da dover dire che quello che è successo a Codogno possa succedere domani anche a Milano. L'idea o comunque possa invadere ulteriormente tutta l'area. Certo, Codogno non è lontana, certo, e questo va preso in considerazione e nessuno può garantire nulla su nulla. Chiaro, noi vi aggiorneremo. I provvedimenti presi mi sembra che siano provvedimenti piuttosto... Professore, lei ha detto epidemia mediatica. Veniamo un secondo su questo punto. Nella scala, come dire, è ovvio che ciascuno fa il proprio mestiere, noi cerchiamo di fare il nostro al meglio, però lei avverte un problema serio su questo fronte? Ma ieri ho ricevuto 48 telefonate da altrettanti organi di stampa, radio o televisione. Tra cui noi, oggi immagino. Più o meno. Adesso non diciamo voleva lì, dire che l'abbiamo tempestato. Il punto è che chiaramente le persone richiedono di essere informate, questo è comprensibile. E purtroppo c'è anche qualcuno che probabilmente ci marcia con un po' di sensazionalismo. Non arrivo certo a dire che questa cosa possa essere sottovalutata, no, o ma considerata per carità, ma come un'influenza appena più grave, questo proprio no, perché insomma basta anche vedere un po' di numeri, insomma, ripeto, Però insomma, è un invito all'equilibrio, mi sembra di capire. Ecco, usiamo la testa e laviamoci le mani. Esatto. Ecco, professore, possiamo mandare questo. Hai trovato il titolo. E poi fidiamoci. E poi forse non mettiamo continuamente le pare. Cioè noi abbiamo delle limitazioni importantissime nel fare ricerca per questioni legate alla privacy. Anche quando utilizziamo dati assolutamente anonimi dobbiamo fare il double a 4 per poterli utilizzare. E poi ti ritrovi sbattuto in prima pagina con nome, cognome, età, indirizzo e lavoro, il nome, cognome, età, indirizzo dei poveri morti di questa malattia. Questo trovo che sia una cosa indecorosa e assolutamente... fuori da ogni etica anche di comunicazione, sarà anche diritto di cronaca, però non credo che le persone in questione sarebbero state contente e soprattutto credo che non ne siano contenti tutti i loro congiunti, che oltre a doverli piangere sono anche nella condizione magari di essere segnati a dito nei luoghi dove vivono. Grazie, ma sono chiarissimo. Professor Pregliasco, io chiuderei, abbiamo detto usiamo la testa, fidiamoci, non perdiamo la fiducia anche nelle istituzioni. Un messaggio per gli amici che stanno tornando, Gigi diceva appunto si sta tornando a Milano, non solo a Milano, e ma solo. l'Italia è lunga. Professore, si inizia una nuova settimana, si chiude una settimana, se ne inizia un'altra, lei quale previsione ci si sente di fare? Sarà impegnativa per questi aspetti, questa medicina amara da assumere. In termini di problematiche, almeno nel territorio di Milano, nei territori del Veneto, insomma del nord, ma come tutte le medicine amare vengono prese nell'ottica di un'efficacia sperabile e che io credo si potrà attuare nel prossimo futuro e quindi ingoiamola bene in un'ottica di responsabilità e di non sottovalutazione senza gli eccessi di un allarmismo che non aiuta. Grazie ai nostri ospiti, a Fabrizio Pregliasco, a Massimo Galli, naturalmente a Ilaria Capo che abbiamo sentito nella parte iniziale. Gigi. Nicoletta, tu domani? Io domani cambio partner. Ok. Perché mi spiace, sono con Simone Spezia alle 6:15, ma poi ritorno anche da sola, insomma gioco un insomma, po'. Insomma, continueremo a raccontarvi naturalmente quello che accade, cercando di rispondere alle domande, cercando appunto di informare senza scivolare in un panico che non serve a niente. GR24 tra un istante. Grazie.